Incontri di Gianfranco Fabi. Di John Lennon, di Imagine, cominciamo il nostro incontro di oggi e cominciamo l'incontro con Loretta Napoleoni. Buongiorno, dottoressa Napoleoni. Buongiorno. E iniziamo con Imagine, una canzone che fa sognare, che fa pensare a un futuro da costruire, a un futuro tutto da realizzare. Perché ha scelto questa canzone? Poi la presentiamo più direttamente, ma partiamo da questa canzone. Ma questa è una canzone che a me piace molto, che mi ricorda un po', diciamo, la mia giovinezza e quel positivismo che avevamo, almeno la mia generazione, quando eravamo giovani, che pensavamo che veramente avremmo potuto cambiare il mondo e l'avremmo potuto creare in un modo migliore, insomma, migliorarlo, ma anche dal punto di vista, direi, dell'eguaglianza, quei principi che hanno costituito la base delle lotte della nostra generazione. Dei principi, dei valori, delle speranze che dovrebbero essere anche quelli di oggi, però, che dovremmo continuare ad avere. Sì, ecco, per questo che l'ho scelta, nel senso, l'uomo sempre deve cercare di migliorare, quindi sempre deve cercare di vivere in una società che è una società sempre più giusta, fino, diciamo, alla società ideale, che chissà se mai riusciremo a raggiungerla. E a volte alcune generazioni questo lo dimenticano. Io trovo che alcune delle generazioni che sono venute dopo di me forse sono diventate un po' troppo consumiste, troppo agganciate, diciamo, ai beni di consumo e poco proiettate verso un miglioramento di quelli che sono invece i valori di una società. Certo, più la quantità che la qualità, questo è un grande tema anche di politica economica. Allora, Loretta Napoleoni, presentiamola, economista, giornalista, scrittrice, ha scritto libri, uno dei più famosi è Economia Canaria, l'ultimo libro è Maonomics, l'amara medicina cinese contro gli scandali della nostra economia, ne parleremo magari nella seconda parte, grande esperta internazionale di criminalità e di terrorismo. Come mai questa scelta di seguire i temi della criminalità e del terrorismo? Ma devo dire che non è stata una scelta mia, è un po' stata la mia vita che ha scelto questa direzione. Io ho lavorato come economista per molte banche e quindi, insomma, diciamo, la mia formazione professionale è decisamente una formazione economica. Poi all'inizio degli anni 90 ho ricevuto una chiamata di un mio amico che si occupava dei diritti dei prigionieri politici in Italia, e mi diceva che alcune donne delle Brigate Rosse volevano raccontarmi la loro storia una volta che avevano dichiarato la fine della lotta armata. Questo perché, insomma, una mia carissima compagna d'infanzia era diventata una leader, diciamo, delle Brigate Rosse. E così io ho deciso di cambiare professione, sono tornata in Italia, le ho intervistate, sono tornata all'università, ho fatto un PhD in terrorismo e da lì, diciamo, è iniziata una nuova carriera. Ecco, criminalità e terrorismo sono due realtà un po' diverse o hanno delle connessioni? Ma sono molto connesse, diciamo, e questo perché fino all'11 settembre in realtà il terrorista era considerato come un criminale, diciamo un criminale che commetteva degli atti criminali con delle finalità che chiaramente non erano a scopo di lucro, ma erano principalmente a carattere politico. Quindi, diciamo, le indagini, ma anche, diciamo, le autorità preposte nella lotta contro il terrorismo erano identiche a quelle delle autorità preposte contro la lotta alla criminalità. E in più, diciamo che il processo di globalizzazione ha dato la possibilità a gruppi armati e da gruppi criminali di iniziare a fare affari insieme, quindi di creare delle sorte di joint venture. Forse l'esempio più interessante odierno è quello dei talebani, che sono diventati dei narco-talebani e che stanno trasformando l'Afghanistan in un narco-stato. Lei vive a Londra normalmente, anche se viaggia spesso per conferenze, per incontri, per interviste. Come si vive a Londra? Ma guardi, a Londra devo dire la verità che si vive molto bene. Io sono andata a vivere a Londra non solo perché è stato, diciamo, l'unico posto dove ho trovato un lavoro, qui in Italia non riuscivo a trovarne uno, però sono andata a Londra perché pensavo che in realtà tra i paesi europei l'Inghilterra era quello che dal punto di vista sociale era il paese più all'avanguardia. Esiste una cultura civile in Inghilterra che è molto profonda, radicale, che praticamente viene anche da un passato, cioè la prima democrazia occidentale. E negli ultimi 13 anni la situazione è un po' degenerata perché abbiamo visto che i laburisti, insomma, hanno un po' spostato l'accento della politica da questi principi, diciamo, civili a un consumismo a carattere molto americano. Però, insomma, dopo queste ultime elezioni devo dire che l'Inghilterra ci sta dando ancora una volta prova di grande coraggio, ma anche di grande democrazia. Ecco, forse le vecchie ideologie per giudicare i partiti, i gruppi politici, le tendenze sono ormai superate anche sotto un profilo inglese. Sì, sicuramente, però c'è questo spirito dell'inglese che è veramente democratico, cioè l'alternanza di governo, che poi è la base portante della democrazia. Dopo 13 anni di governo laburista si torna a un governo conservatore di coalizione che è molto più, diciamo, liberale in un certo senso che non il governo laburista. E al di là delle sue giudizi, come si giudica l'Italia dalla Gran Bretagna? Qual è il giudizio diffuso, diciamo, degli inglesi verso l'Italia? Ma dunque, negli ultimi anni devo dire che il giudizio non è molto positivo. Si guarda un po' all'Italia come si guarda a un giornale, a un rotocalco. È molto divertente leggere storie, però non si considera l'Italia come un paese politicamente serio, proprio per queste storie all'avanguardia, diciamo, della stampa italiana sulla classe politica. Quindi il giudizio direi è abbastanza È negativo. abbastanza negativo. Ci fermiamo qui, diamo spazio alle notizie sul traffico. Incontri. Rieccoci con voi, il nostro incontro con Loretta Napoleoni. Loretta Napoleoni, lo ricordo, economista, giornalista, grande esperta di criminalità e di terrorismo, soprattutto in un'ottica economica, autrice del libro Economia Canaria e recentemente in libreria in questi giorni Maonomics, l'amara medicina cinese contro gli scandali della nostra economia. Abbiamo concluso la prima parte parlando del giudizio un po' degli inglesi, ma non solo degli inglesi verso l'Italia, un paese che stenta a ritrovare una sua solidità politica, un suo progetto politico vero e proprio. Ecco, da un profilo più strettamente economico, la realtà italiana comunque in questa fase sembra avere un po' meno problemi di altre realtà come quella spagnola, portoghese, non parliamo della Grecia. Anche in questo forse l'Italia qualcosa ha fatto. Ma sicuramente l'Italia qualcosa ha fatto, si trova in una situazione sicuramente migliore della Grecia e della Spagna perché una politica di contenimento della spesa pubblica è iniziata già da alcuni anni, però non si trova così bene come gli italiani pensano. Nel senso, all'estero la visione dell'Italia, specialmente dal punto di vista dei mercati finanziari, non è così diciamo rosea come ci fanno pensare. Ecco, i mercati finanziari sono un problema in Italia, ma un po' in tutta Europa in questo momento. Si pensava che il vero problema fosse quello americano, i mutui subprime, il debito crescente. Poi l'Europa ha visto scoppiare al proprio interno una crisi molto forte. Ecco, una crisi a cui si affiancano anche scandali, come purtroppo ogni giorno vediamo anche in Italia. E questo libro, Maonomics, parla proprio di medicina cinese contro gli scandali della nostra economia. Partiamo da questa seconda parte. Come giudica questi scandali della nostra economia? Quali sono? Ma io penso che lo scandalo più più importante al momento sia proprio il fatto che viviamo in un'Unione Europea che in realtà è d'accordo solamente sul non essere unita. Che cosa significa non aiutare la Grecia? Che cosa significa non fermare anche questa accumulazione del debito pubblico da parte di paesi appunto come la Grecia? Poi improvvisamente ci troviamo di fronte a una crisi diciamo globale creata dal mercato, quindi è il mercato che ci spinge a fare determinate politiche, anche a prendere delle decisioni, e non si riesce a trovare un accordo che sia un accordo vero. Quindi la mancanza direi di unità, proprio di movimento, di decisione all'unisono di questa Europa, io trovo che sia uno scandalo, nel senso... C'è uno scandalo politico, il fatto che si sono fatte delle scelte ambiziose come quelle della moneta unica europea, che dovevano essere la guida poi per fare delle scelte anche di unità politica, ma l'unità politica è ancora difficile. Perché? Perché i singoli governi badano più ai propri interessi e non pensano che l'interesse collettivo sarebbe anche l'interesse dei singoli paesi. Sì, dunque noi abbiamo un sistema economico ma anche un sistema culturale, perché poi l'economia è sempre lo specchio della cultura e anche della politica, che è basato essenzialmente sull'individualismo e quindi sul nazionalismo. Siamo uniti però non siamo uniti. E direi che forse l'esempio più interessante che possiamo prendere al momento per capire quanto disuniti noi siamo è quello che è successo a Dubai. 7 mesi fa a Dubai si è presentato sul mercato dicendo che non aveva quei 30 miliardi di dollari per ripagare le cedole delle proprie obbligazioni. La Abu Dhabi, che non voleva aiutarlo, alla fine lo ha aiutato, quindi ha garantito quel debito, si è rinegoziato il debito, hanno pagato solamente il 40%, e questa settimana praticamente il Dubai ha dichiarato che si era risolta questa situazione. Quel che vuol dire che tra qualche settimana il Dubai tornerà sui mercati internazionali del capitale e sarà in grado di prendere soldi in prestito. Noi 9 miliardi di euro alla Grecia non siamo riusciti a decidere se darglieli oppure no. E quindi il salvataggio poi della Grecia è costato molto di più di quanto sarebbe costato se si fosse intervenuto subito, quasi con un automatismo. Ecco, quindi il problema della finanza è più un problema di regole o più un problema di comportamento? Io direi ambedue, cioè nel senso dal punto di vista delle regole non esistono delle regole che possano impedire per esempio la speculazione selvaggia nei confronti dell'euro in una settimana, tipo la settimana scorsa in cui l'euro barcollava. Questo è uno dei problemi, ma dall'altra parte secondo me anche i comportamenti. Che cosa significa essere uniti? Che cosa significa una moneta unica? Bisogna avere un codice di comportamento. Se non si hanno le istituzioni necessarie, che chiaramente noi non possiamo avere un'unione politica, non possiamo avere un presidente europeo come abbiamo un presidente americano, però almeno che ci siano dei comportamenti ben determinati su cosa fare in questi momenti di grande bisogno. Ecco, e qui viene la provocazione: imparare dalla Cina. La Cina viene vista come una grande potenza, un grande paese, 1.300.000 persone, una crescita economica tumultuosa, ma è anche un paese comunista in un certo senso, che continua ad essere dominato dal Partito Comunista, un paese autoritario in cui i diritti civili sono indubbiamente limitati. Ecco, perché prendere esempio dalla Cina? Lei dice l'amara medicina cinese, in questo libro lo ricordo, Maonomics. Ma amara perché è difficile per noi accettare che la Cina può insegnarci qualche cosa. Ma io credo che dal punto di vista politico l'unità garantita appunto dal partito unico, almeno fino adesso all'interno del processo di globalizzazione, ha funzionato bene, perché ha dato la possibilità al governo di dirigere l'economia nella direzione giusta, e questo è molto importante in un'economia globalizzata, perché ci troviamo in un territorio nuovo, quindi i mercati cambiano con una grandissima velocità. In più il controllo della politica sull'economia ha dato la possibilità sempre al governo di non aprire il mercato finanziario, come invece è avvenuto da noi improvvisamente ed eccessivamente. Quindi la Cina è sopravvissuta molto bene alla crisi del credito del 2008 e non è stata toccata dalla recessione. Qual è, diciamo, l'insegnamento? Secondo me l'insegnamento è proprio l'importanza della politica, cioè il fatto che noi non possiamo fare politica solamente quando ci troviamo in crisi profonda, come avviene oggi. Noi dobbiamo fare politica anche nei momenti in cui c'è una crescita sostenuta, e per prepararci alla crisi futura e per evitare questa crisi futura. Ecco, questo secondo me già potrebbe essere un grande insegnamento. Ecco, questa prospettiva è tale da rendere anche la Cina un paese in cui sarà possibile vedere un'affermazione dei diritti umani, dei diritti sindacali, dei diritti della persona, cosa che attualmente è, se non problematica, perlomeno in dubbio. Ma dunque, in Cina c'è stata una legislazione del lavoro introdotta nel 2007, che è una legislazione che ha fatto grandi passi in avanti per quanto riguarda lo sfruttamento dei lavoratori, ed infatti la gran parte degli imprenditori stranieri se ne sono andati dalla Cina e sono andati in Vietnam, dove le condizioni di lavoro sono più vantaggiose per loro. Per quanto riguarda i diritti umani, sicuramente la Cina deve ancora fare grandissimi passi in avanti, però se confrontiamo quello che era la Cina nel 1989, non dimentichiamoci la strage di Tiananmen, e quello che la Cina oggi, ci sono stati grandi passi in avanti. La Cina si sta muovendo lentamente, perché così si muove la Cina, senza correre, progressivamente verso un miglioramento delle condizioni della popolazione, dei lavoratori, ed anche verso una futura democrazia. Esiste un processo di democratizzazione in atto. Noi invece stiamo andando un po' indietro, non dimentichiamo la guerra in Iraq, non dimentichiamo l'uso della tortura, la rendition, la prigione di Guantanamo. Questi sono carichi molto pesanti sulla nostra coscienza. Noi pensiamo che la democrazia possa permettersi anche queste cose, ma invece bisognerebbe riflettere anche su questi elementi che rendono la democrazia qualcosa di teorico più che concreto. Sì, io credo che la democrazia deve essere conquistata giornalmente. Io credo che la democrazia non è un punto di arrivo, ma è una condizione, quindi è una condizione comportamentale. E quindi non dimentichiamoci che dobbiamo ogni giorno sforzarci di mantenere questa democrazia e di migliorarla. Ecco, uno degli ostacoli è proprio la criminalità. Io qui tornerei a guardare un po' all'Europa e all'Italia. Questo fattore criminalità è un fattore che pesa molto fortemente sulle attività economiche e sull'evoluzione economica. Come sta cambiando il quadro della criminalità come fattore economico? La globalizzazione è stata positiva per il crimine organizzato, nel senso ha aperto nuove frontiere, nuove possibilità. Basta pensare che oggi come oggi l'Europa è il centro di smistamento della cocaina mondiale, cosa che non esisteva 10 anni fa. E lo stesso vale per il riciclaggio del denaro sporco. Chiaramente l'Italia è un po' al centro di questa attività, perché l'Italia è il paese dove abbiamo la maggior parte del crimine organizzato, diciamo, che ha una tradizione. Abbiamo un know-how in fondo, sì, italiano. Abbiamo un know-how, è giusto. E lo abbiamo anche esportato, nel senso è un modello che poi è stato esportato un po' dovunque. Poi abbiamo la diaspora italiana, cioè del sud d'Italia per esempio, che è diventata una sorta di rete per organizzazioni come l''Ndrangheta, che oggi come oggi è una delle organizzazioni più forti dal punto di vista appunto del crimine organizzato nel mondo. Ecco, mi permetto di ricordare che proprio in questi giorni è in edicola insieme a Sole 24 Ore un libro di Roberto Galullo proprio sull'economia criminale, che dà un'immagine complessiva appunto dei flussi, dei metodi anche degli affari della criminalità in Italia. Ecco, una criminalità che pesa anche sulle prospettive di crescita dell'economia? Dunque, ci sono degli elementi positivi e degli elementi negativi. Sicuramente l'elemento negativo è l'infiltrazione progressiva dell'economia criminale nell'economia legittima attraverso processi tipo questo recessivi. Quindi quando si contrae l'economia diventa molto più difficile per l'individuo avere accesso al denaro contante attraverso le istituzioni tradizionali, e quindi il crimine inizia la sua opera di penetrazione. L'elemento positivo è il fatto che anche in situazioni di contrazione le economie dove c'è un'alta percentuale di economia criminale, anche di mercato sommerso, riescono a sopravvivere meglio delle altre, proprio perché esiste un'economia, diciamo, liquida, quindi di contante, che assorbe meglio l'impatto, certo, recessivo. Ecco, torniamo un po' all'inizio, purtroppo il tempo è volato. Come immagina Loretta Napoleoni il futuro, il suo futuro, ma anche il futuro nostro, delle nostre società? Ma io spero che continueremo a fare un'autocritica perché negli ultimi 20 anni, nel processo di globalizzazione, abbiamo un po' perso il significato di che cosa significa vivere in una società. E quindi dovremmo tornare un po' ai valori fondamentali, importantissimo quello del lavoro, ma anche dal punto di vista dell'economia in generale. Noi dobbiamo tornare a produrre. Basta consumo, non dobbiamo consumare, cioè abbiamo consumato abbastanza. Beh, per produrre poi ci vuole qualcuno dei consumi, ci vuole qualcuno che apprezzi, quindi tornare anche al gusto del bello, del giusto, di quello che si può fare anche per gli altri. Sì, si può consumare, ma si può consumare all'interno, diciamo, di determinate regole che non siano il consumismo sfrenato, sicuramente non indebitandoci, quindi dovremo anche tornare a risparmiare. Avere un po' più di senso della misura, un po' più di senso appunto di una realtà che è fatta di tante persone che hanno bisogno di tante cose e che possono essere anche tante opportunità, tante potenzialità. Sì, e poi possiamo anche goderci la vita, perché no, è bellissimo fare una passeggiata nel parco, non dobbiamo per forza entrare in un negozio e comprarci 10 borse. Ecco, e magari sentendo una bella canzone come Imagine che concluderà questo nostro incontro, io ringrazio Loretta Napoleoni, giornalista, economista, autrice di Maonomics, un libro che è in vendita in questi giorni, L'amara medicina cinese contro gli scandali della nostra economia. Ringrazio in regia Carmelo Raricella, in redazione Anita Panizza. Ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere ascoltato dal sito www.radio24.it. Ed ora, John Lennon.